உணவு கேட்காங்க. Altrettanto, dai. No, mi interessava vedere se stavo scendo. Sì, sì, già va bene, già va bene. Ciao Natali, ciao. Chi è il mio amico che sta chiamando Natali, avanti. Va bene Natali, voglio andare a te, dai. Ciao, ciao. Non lo sento l'altro amico, mi dispiace. Ma c'ho 7 di QRM qua. Ha detto che è Giovanni. Ah, e dilli che non l'ascolto, Vabbè, Giovanni non ti ascolta, attrizzati, ciao. Antonio Cantonio. E beh, andata lì. E beh, beh. Penso sotto un attimino, due, un attimo. Allora, stazionale. Oh, 1 e 2, 1 e 3, là, va bene. Un attimino il telefono, dimmi Mari. E beh, andata lì. Mi dica. Allora, l'hai piazzato. No, negativo. Sta arrivando un bel forte, ma lei mi ascolti a me. Bello Cariello. Ehi, muccolo! Ma lei mi sentite? Sì, perché io l'antenna, vabbè, l'avevo sistemata, che me ne era quasi caduta in terra. Stazionario 1 e 2, là, 1 e 3, boh. Ehi, ma sei qua in zona però, non sei a casa di tua mamma. Ehi, sono qua a Teroce, là. Ehi, ma fino dalle parti tue. Che stavo vaccinando. Ho capito, ah, la casa vicina a casa, Eri. Sì, positivo, allora io vado a fare commissioni. Poi oggi era il giorno dell'assistente, c'era l'assistente e mamma a casa, capito? Per aiutarla a lavarsi e quant'altro. KK, Natalino. Ehi, Santiago 9, ti ascolto qua. 9 Radio 5. Beh, Pollu, devo chiederti, ma chi è quello sopra di te? Quello sopra di me? Ma l'antenna? Ehi, più su di te. Barbiere, Alessandro. Non lo so, non lo conosco. Ma, sto conosco Alessandro Nuvola, ma. Vabbè, se lo vedo sì. Di persona magari anche sì. Ehi, lo conoscerai a Puglia. Ah, Natalino, non hai fatto niente, sicuro. Vai di basso a basso, ma hai fatto qualche modifica? No, non ho fatto proprio nulla. Sei 9:20. Vuol dire che ricevi meglio. Io Santiago 9 Radio 5 ti ricevo. Sì, quasi su più. Arrivi benissimo. Come se ti abbia perso l'antenna. Se arrivi zincu, sì. È strano. E vuol dire che l'antenna prima riceveva diversamente. Ah, io ti ricevo benissimo. Cappa, cappa. Andava a essere, vediamo, ti fatto date qualcosa. Vatti. Allora, sono venuta che c'ha. Non c'ho la. Lascia vedere. La scala 20. La scala 20, blu. Scala 20, sì. No, scala 200. No. Allora, scala 20. Allora, no, così no. Ora. 13 watt. Alla faccia. Ecco, come ci fa? Stai andando benissimo, va bene veramente. Buttateci di tutto, buttateci tutto. Aspetta che provo il Superstar. Luca. Prova. Guarda a vedere col Superstar. Più basso arrivi, poco a poco, ma sei. Ti arrivi bene comunque. E questo 4 watt c'ha scarsi. Questo non l'ho aperto, che è l'omologato, capito? Ah, me l'hai gatto è quello. Questo è me l'hai gatto, non c'ha manco canali, nulla. C'ha 40 canali solo, e boh. Comunque, è come se abbia piazzato l'antenna nuova, Natali, arrivi bene, bene, bene. Mai così sei arrivato qua. Arrivavi malissimo, E cosa vuoi che ti dica? Io non ho piazzato nulla, quando la piazzo te lo dico. Si è asciugata l'antenna, buonasera. Mi lui? E me, Cri? Vabbè, ti sento un po' come sta correndo, però ma ti sento, dai. Ah, ti ascolto benissimo, segnale 8, radio 5 qua da me. Ascolto bene tutti, Tino, sicuramente nella piccola station. Ah, vi ascolto bene, dai. Sì, io sono in Italia però adesso. Dove ti dica, vuol dire perché l'Italia sono negativo, ma non sono a casa della mamma, sono qua a Lima Delta. No, ti ascolto bene adesso, io sono un po' libero dei palazzi, dai. Guarda Natali, non se lo senti, va Natali. Guarda Luca, si sente l'amplificazione adesso, che ho aumentato il macchinino. Ehi, a voglia. Prova a chiamare a Cristian se ti sente. Cristian, mi senti? Mi sento forte e chiaro, caro. Cava cava. Ma l'antenna Natali non l'hai piazzata ancora. Devo fare visite e cose, sono sempre impegnato. Quando appena c'ho 5 minuti di tempo già la piazzo, è già pronto tutto qua per piazzarla. Io stesso impegni con mamma. dentista, medico, là, boom, va, fai quello, fai l'altro, un casino. Mi lo dice, devo col dentista, vado a ciambà. Adesso il giorno 8 c'ho la visita dal cardiologo, che gli ho buttato tutti i documenti, gli hanno pure un poco di cosa, mi ha fatto fare una radiografia, da lui mi ha fatto fare tutte le analisi di Rusango, Dorra. Vabbè, anche io dovrò fare le analisi del sangue di nuovo, a tenermi sotto controllo, perché me comincia, perché le fai? Perché le faccio? Secondo lei, se le faccio vuol dire un motivo, cioè, per vedere un po' come sto, perché se sto bene, però, meglio sempre fare le visite, no? Fare le visite, fa bene, fare il medico, fa bene. Oggi un medico vai che in vicenda rompe le palline, altro che. Per me invece deve far peso me ne sangue. C'è anche Tino Muccolo, Tino se ne sta affettando, Tino, non parli, no, Tino. Cos'è Luca? Ah, Tino lo sto dicendo, che non parla. È perché Tino è impegnato, Sta affettando salsicce. Ah no, fa bene. Ma poi vado a tagliare le castagne, là. Me la sento 10 minuti, sennò la 25 quando arriva, non è tagliate le castagne. Là, arrivo subito. Fai, tagliare le castagne alla 25, vai. Mi ho buscato un baracchino, gatta, per mettere nella macchina, Ocri. E che apparato hai buscato? Come? E che apparato hai trovato? Uno di quelli che piccolini. Te li ricordi quelli piccolini, quelli antichi, mi? 34 canali, e non c'era alimentazione, nulla, ho fatto l'alimentazione, adesso tanto l'antenna già ce l'ho della macchina, mi metto bene la base magnetica e poi lo piattiamo e vediamo un po'. Allora, va bene, lo sai, un chiero che ho trovato ieri mattina. Come? Ieri mattina ero con il nostro collega di radio. E con chi? Tonino Civas, l'amico di Bulldozer. Ah, K. Collega di Bulldozer di Vulcano. Ehi, già lo so, già l'ho sentito. No, poi ho amici che lavorano all'ambiente. E ho sentito un nominativo che, te lo ricordi, Benito. Ah, Benito, sì che me lo ricordo. Ma dammi, se c'è un amico mio lì, guarda, passi là, ma perché? Questo è Benito. Ma che grande puffo. E lui che lo conosco allora. Eia. Mi sono ricordato i vecchi tempi. L'ho sentito da poco a Benito. Ma non è che entra spesso, capito? Entra veramente, molto veramente sta entrando. Infatti. Io ci faccio una bassa al volo, esci. E già sono qui in ascolto, dai. Che è? C'è solo 10, sì. Esci, passa, ma esci. Buonasera a tutti, do più rumore. Attenzione, canale 10. Avanti. Ciao Mattarino, buonasera. Ciao Gianni, buonasera, ben sentito. Ma non c'è più nessuno, ho sentito che c'era gente poco fa, stavo facendo l'arboretto, poi si è già tutto andato. Eia, Luca sta facendo cosa? Cristian lo stesso, c'era anche Tino che è impegnato. Il talento che è arrivato. Tutti con l'impegno, insomma. Aiaia. Vabbè, cuocomani. Mimi, quel cuocomani è rimasto, Marcolino Condo. Buonasera a tutti, avete parlato in due. Un saluto festoso a tutti, sto cucinando. E entrato a salutare, e boh. Ma quello quando quel drogato. Ehi, drogato, cuocomane. Ma cuocondo, caro caro. Anche Luca, stavo ascoltando qua, oggi, ho acceso, tutto, c'è due dita di polvere su questo apparecchio, per carità. Tutto va a ripulire e da inscatolare. Riprendi Luca, io sono all'ascolto e sono ai fornelli, ciao. Ciao, ti stai trascurando quegli apparecchi, spolvera lì un po'. Ai, Paoletto. Come finire? Come finire? Me la metto come suoneria. Ma tu sei? Davvero? No, è Luca che c'ha le sito, le registrazioni. E non sai come la metto, adesso vai a cercare un casino, come faccio? Fate da bravi, sono rientrato. Chi è Tino? No, sono Cristian. Ciao Cristian, ben sentito. Io entravo un po' di tempo fa, poi mi sono rotto le palle, non sono più entrato, sono entrato a salutare che ho sentito Gianni, Natalino, poi c'era anche Luca e prima, vabbè, stiamo durando tipo baramobile, eccetera. Dai, sono in fornelli, se no mi si brucia la roba. Riprendi Cristian, Marco da questa parte, Sassari. No Marco, no, sono un baramobile in giro oggi. Gianni, riprendi. Ehi, ehi, ehi. Dove sei? In Italia, Gianni, in la Sardegna. E dove stai? Andando. Ah, Gianni, tu sì che mi camminesi. Luca, guarda, ciao, buonasera, guarda. No, come si chiama? Huawei P20. Quanto viene la batteria? Aspetta. Ciao, intanto guido, oltre a camminare. Che bello. Già sul lavoro cammino abbastanza, in macchina non cammino più ultimamente. Già mi prendo poco di benzina, ma non ti costa te la benzina. No, no, io guarda, io la macchina la tengo tutto il giorno ferma, perché la tengo 10 ore ferma la macchina sul lavoro, ma sul lavoro mi faccio 10 km lì al giorno a piedi camminando. Ah, così? Fatto, cosa vuol dire, non ti vedi uolla se cammini a piedi. Non ti ho abituato. Oh Gianni, dimmi la flight. Ah, lo sai dove posso trovare quel portapacchi che c'è per la macchina mia, quello con due sbarre? Quello lì, nei negozi dove ci sono questi ricambi, ma sai dove vai? In via Gorizia c'è un negozio di ricambi, vai lì e sicuramente lo trovi. Gianni, ma P20 light? P20, non lo so se è light, aspetta. Mi sa che è light. Luca Luca. Andiamo, andiamo. Andiamo, Emi. E tutto. Babbo, andiamo e andiamo. Poi P20 light o P20 pro, controlla bene. Aspetta che mi ha detto che... Io te lo dico dopo, dai, che non se lo ricordava lì. Ok. Comunque la batteria costa intorno ai 25 euro originale. Quindi riferrà fa tutto il lavoro quanto viene, vediamo un po' se conviene. Riferrà fa tutto il lavoro una quarantina di euro. Troppo, troppo, troppo. E già, cazzo, troppo. Come la bella un telefono lungo, no, perché ce l'ha il P20 light, ma c'è la batteria, o è il light o è il pro, non lo so. Però ha la batteria che se ne sta andando. Beh, 40 euro se il telefono è nuovo, come ripararlo? Se vuoi comprare un telefono nuovo ti bastano più di 100 euro, andante, capito già, boh, vedi tu. E dai, te lo faccio sapere, dai. No, il telefono nuovo l'ha già comprato, si ha preso l'occo. Però quello lì non vuole ripristinare e magari usare come secondo telefono. Lo so, lo so. Boh, vedi te, già, se secondo dove vai, minimo te ne sparo 70, tanto sicuro non lo ripari, perché sono beccari, sono. Però va, non lo so, mai dai cinesi ti mettono una batteria di quelli non sono originali, dopo poco tempo ti si gonfia e ti si rampini di là. Lo so, vabbè, dai, ti faccio sapere. Uia. Perché ce l'ha, è un peccato, è nuovo nuovo, esternamente è nuovo. Allora già, 40 euro si possono buttare. Poi al limite si vende. Bravo, adesso lo vendi 40, te lo vendi 100, 60 euro te li recuperi, sono buoni. Vabbè, dai, vediamo un pochino, ma se glielo dico a lui. Ascolta, ma si può anche formattare, sì. E tutto si fa, tutto ti faccio, non c'è problema. Faccio la configurazione, sempre per quella cifra lì. Va bene. Ma aggiustato me l'hai il mio? Il tuo Natale. E allora, aiuto. No, il tuo è tutto smontato a casa. No, non va. Ho fatto anche la modifica per essere la batteria, nulla, non parti. La scheda bruciata proprio. E non mi sei bruciato che sono di... del tuo band, mi sei bruciato tutto lo stesso. Chi? Non ho capito. Quello di quel cinesino mi si è bruciato, di quel bibanda cinesino che lo usavo per ascoltare. Ah, ma portatile? No, veicolare. Questi di sempre. L'accendo l'altra mattina e mi dici Achilled, morto, boh. Ma è fusibile, no? No, perché accendeva e... però non mi faceva entrare nel menu, non mi faceva resettare nulla, il processore. No, ho capito. Ho capito. E vabbè, purtroppo ci sono questi VLU bellini, veicolari. Vabbè, io adesso non ce ne spendo, ma non me ne frega niente. Tanto baghi su VIF, non ha fatto più nulla. Se devo ascoltare, già ascolto uguale col portatilino. E comunque sia, è molto bello, adesso non mi ricordo, si chiama TYT, TIT così. Già lo so, ce ne sono tanti tipi. Scappa, avanti già. Ma Luca, ma è possibile che possa arrivare in domenica? No. Che cosa? Una cosa che ho comprato su Amazon, vedi, domenica 30. Tutto è possibile, Natalia, sì. Che succede tutti i giorni? Sì, lavoravamo di sabato di domenica anche, sì, sì, sì. Visto la crisi, la gente lavora anche di domenica. Insomma, cosa ci sarà? Prato, però diverso. Che stava parlando l'altro, chi è? Non esagerare, anche di domenica, dai. Ehi, Acri, ciao, dove sei? Vicino adesso, no? Anche di domenica lavorano, tranquillo. E da lì, dalla sua vialetta, sono adesso. No, ma tu la vialetta? Dov'è che lavora la domenica? Io domenica non lavoro, è la casa mia, sì, ma pure no. Ah, stamattina mi sono venuti a casa. Mi ha detto, sono la postina. Mi ha lasciato il pacco in casa e se n'è andata. E fate i gusci, ma fa impressa. Fammi, se nel momento passa qualcuno, se lo prende, è l'armagime dei pappagalli, quello lì non si trova a Sassari, devo tirare da fuori per forza. L'armagime per Nettarini. E te che hai più gusto? 40 euro la scatola. Sotto, sì. Che sta cercando? Dimmi. Oh, c'ho faccio la pedaniera di traffico, per carità. Cavagliata. Positivo, positivo. Già, sempre la stessa sono date di segnale. No, non posso fare perché sto usando l'apparecchio brutto, quello che rimizzo. Ti darei un segnale sballato. È molto raro questo qua, capito? Ti segna sino a 9 e dopo un segnale. Vabbè, comunque mi ascolti bene, sì. Eia, dove sei? A casa tua? Dalla 25. Cavaga, ma sì che ti ascolto bene. Tu ti potresti mettere anche la Venom. Dove la metto? Ma c'è una 50 alfi. È una 50 alfi, ma è piccola, con radialini piccolini. No, non dà fastidio di nulla. Ehi, vabbè, già c'è questa boomerang. Questa boomerang me la sbatta la faccia. Ma prendi da tutte le parti con quella lì. A Sassari sì. Siete le ciocco prende. Vabbè. E fuori? Intenna 2000 prendo. Fuori? No, ho fatto anche collegamenti in propagazione. Il dottore si mi ascolta a basso, io vabbè ricevo basso qua. Purtroppo completa il palazzo. So arrivo bene, molto bene. Vabbè, il suo cosa lo fa, dai. Magari messa sul tetto andava bene. Lo so, purtroppo non si può fare. Bisogna accontentarsi. Ne hai due di stazioni, io ne ho una sola. Vabbè, già, cosa c'entra? Ma alla fine l'ho messo giusto così, quando una giugana, fammi due chiacchiere qua. Visto che molte volte arrivo a casa alle 8:30 non c'è mai nessuno. Perché prima si chiudeva tardi, c'era una bella rotta anche di notte e cose, quando c'era... non mi ricordo come si chiamava. Vabbè, comunque c'era una bella rotta anche di notte, si stava sino a tardi. Io mettevo le cuffie, ascoltavo. Ma non vengo nessuno. Sono tutti fuggiti. Sì, vabbè, io già l'ho capito. Casino, per carità. Sono stanco morto, cavolo. Da mese di mangiare in piedi. E io scusa, il dress è dato. 3:30, là. E poi mi attacco su TikTok, c'è questo tipo che fa la diretta e fa vedere come fa il pane. Un panificio, dai, in continente. Alle 3 di mangiare. E alle 4 iniziano. E tu dopo di barattini. Ah, vabbè. Poi se capita mi riaddormento, non sempre. Infatti Sassia mi sono riposato. Non c'era nessuno, nessuno, nessuno. Mi sono detto Maria, ma non si alza, fa un casino. Vabbè, sono in casa sua, insomma, ma comunque. Non c'era nessuno, ho dormito sono svegliato le si, ma quasi le sera. No, io grazie a Dio non so cosa, stento un po' a dormire perché mi guardo il televisore e poi mi addormento sul divano a volte, poi quando c'ho freddo mi sveglio e sono già in tre. Prendo, me ne vado a letto, mi copro bene e stento un po' a dormire, ma dopo già mi addormento e faccio tutta una tirata, si dalle 9:15. Chi è che sta chiamando? Va. Attenzione Peroncino, si ascoltato più lungo. Attento Peroncino. Ti ascolto molto basso Peroncino. Vai. Vediamo cosa sento. Nulla. No, ma sento le Peroncini e ne bottiglie grandi. Boh. Sì. Beh. Io non sento la Giovanni, Chi è che è, beh. Certo, certo. Senti, non c'è nessuno su lì, fuggite. GQ, canale 10. GQ 10, c'è qualcuno in ascolto? Hola. Chi è? Chiamate. Vabbè, Natalino so. Natalino, ti ho chiamato pure stavolta, te ne sei andato. Non ne ho ricevuto chiamata, perché stavo andando alla GBC a prendermi un cavo di alimentazione, perché non c'era né spinotto né nulla. Scusate, ma tu hai cambiato un numero, aspetti, dico l'ultimo numero di finale, perché ho chiamato due volte, anzi tre volte, e cadeva sempre la linea. Stavo chiamandola, ciao Natalì. Ciao Cla. Cosa vuoi che ti dica? Ho chiamato, non ho sentito nessuno, ho spento e sono andato qua adesso sul 10. Aspetta, chiedo, guarda il numero di Natalino, se è giusto gli do gli ultimi due numeri. 094 e... Ho detto che ero in cucina, che tornavo subito, cosa spini? Non ci compresi perché non lasci accese la radio. Natalino, 80-94 finale. Mi faceva mezzo squillo che aveva la linea. Infatti ho detto, forse ha cambiato numero. No, non ne ho cambiato. Prova a chiamarmi a vedere, mi pare strano, perché non ne ho ricevuto. Ero alla GBC io comprando roba. Ma ti sto chiamando in diretta adesso. Chiamata terminata, non è che c'è qualche blocco tu? Non è possibile. Guarda se mi hai bloccato al telefono, perché fa uno squillo, tu che cade la linea. Aspetta un attimo. Preparato? Io vabbè, sono in ascolto qua, non vuole parlare qua, sono lì in ascolto. Sì, preparato. Chi è avanti? Ciao Natalia, Carlo. Ciao Carletto. Come andiamo? Come sempre, già andiamo bene, dai. Mi si è crepato quel veicolare che ti ho detto. Che mi si è bruciato il processore. Caspittina, e quindi non si può riparare, no? No, il processore è partito, mi diceva la scritta Achilles mi metteva quando l'accendevo. Ho capito, allora forse conviene più cambiare tutto l'apparato allora. Me l'ho già ricomprato un altro. Era un cinesino, era. Allora va bene, dai. Capita con quelle cose lì. Infatti. Io ho acceso un attimino adesso perché sto aspettando che rientri mia moglie, che è andata dalla mamma, che anche quella sta andando maluccio. E quindi ho detto esci a vedere se c'è qualcuno sul 10. Oh signor. Dice che ritorna il freddo in questi giorni, Natalì. Torni quando vuole. Il freddo, cosa vuoi fare? Poi inizierà il caldo. Vabbè. Io rimango un altro pochettino in ascolto, Natalì. E poi, come tanto mia moglie starà per rientrare, ci organizziamo con la cena. Nel caso, poi ci sentiamo con calma domani mattina, che sono libero tutto il giorno. E niente, dai. E poi, se te l'hai già ordinato l'altro apparecchio, cosa ti hai preso? L'RT95. Ho capito, già lo conosco. Sempre, diciamo, da auto è quello, no? Eia. Mi serve per ascoltare più che altro, qua mi serve, capito? Ho capito. Sì, Adesso vedo anche io se ne trovo uno così, però senza spenderci un occhio della testa, capito? Ecco, da poco quello lì. Magari poi quando ti arriva mi mandi una foto. Ok. Natali, io devo mollare perché sono alle prese coi fornelli, se no non riesco a terminare. Oh, vai e fai quello che devi fare, dai. Tengo un altro pochettino in ascolto comunque. Ci sentiamo alle prossime. Un saluto, ciao Natali. Ciao, ci sentiamo domani, ciao Carlo. Hola, c'è qualcuno su 10? Ci sono io. Ti sto provando un'altra radio, quella grande, il fratello grande di quella che uso solitamente. Come va questa? Bene, robè. Segnale uguale? Segnale non te lo so dire perché non... attento poco fa. E la radio, la modulazione va bene? Va benissimo, arrivi, aspetta che te lo dico il segnale che arrivi con questa radio. Prova. Perché c'è queste scariche quando schiacci il BTT, Natali? Perché è duro questo cavolo di microfono, devo al lato, lo devo premere per non fare nulla. 9:20 arrivi. La radio è forte? Di lusso. Ma questo è il fratello maggiore di quello che utilizzo sempre, dai. E K, va benissimo. Va bene, dai, meglio così, dai, lo faccio andare ogni tanto, perché questo è dedicato per altre cose, sta aspettandomi se domani riesco a fare qualcosa, non dico tutto il lavoro dell'antenna, della filare, così, è quasi finita, mi devo mettere, saldare il PL, siccome devo mettere quel commutatore coassiale su a 5 posizioni, con un unico cavo, così me ne tolgo un po' di impicci. E io mi sto ordinando un alimentatore. Per che cosa? Per qua. Ma grosso? Piccolo, usami i volti. Però ti ha dato quelli dei computer che costano poco e tirano un sacco di ampere. Ne ho due qua di quelli, no? Ma lo prendo di quelli con gli strumenti e tu. Capito. E poi? Ma se c'è un invo, vabbè, dipende da quanto lo stai pagando, perché adesso con quelli dei cinesi, poi ti ordini, gli strumenti digitali costano 10 euro, se li prendi tutti e due amperometro e voltmetro ti costano magari 12-13 euro perché li ho presi io per il camper. Digitali funzionano benissimo e ti rompi un contenitore e te lo fai tu l'alimentatore. Lo so, dai, però lo prendo già fatto, dai. Non ne ho tempo da perdere, non ce l'ho più quella passione. Ma switching o coso? Di quelli lineari, cosa, trasformatore? No, switching me lo prendo. E vabbè, per questioni di peso e di spazio già vanno bene, magari per affidabilità io sono sempre di quelli, soprattutto quando si parla di radiofrequenza, quelli vecchia generazione, sono pesanti, ingombranti, però se c'è qualche fulmine, qualche temporale, non disturbano. Gli altri invece, basta che ci sia una scarica a 2 km, te li bruciano, sai quanti se ne bruciano, come i TV. Vabbè. Adesso spedisco l'ordine. Avanti, sì, nazione Italia, dettagli, cosa scrivo? Non ho capito cosa hai detto. Dettagli c'è scritto. E dettagli di che cosa? Forse dell'alimentatore. Nessuno si è sentito qua su 10? No, negativo. Ma sta entrando poca gente. L'altro giorno sono entrato, ho sentito di sfuggita, ho acceso un secondo che poi ero su altre bande e ho sentito a te, a Carlo, a Gianni, doppio room, non ho sentito più a Giulio, da parecchio che non lo sento. E tu già c'hai nato, Natalia? Io sì, ce n'ho presto perché per via del diabete, capito? Ma tu la puntura quante volte la fai? La notte è solo, mi hanno dato questa pastiglia che è una bomba. È meglio così, perché io mi ricordo mia nonna, mamma mia, poverina, tutta la vita, sino è morta mi pare a 87, 88 anni, non mi ricordo, 80, forse 89 anni, tutta la vita con questo cacchio di insulina, con quelle punture, mi ricordo quelle che si mettevano a scaldare in acciaio inox, quei contenitori, la siringa, ogni ago, e tutti i giorni dovevano fare di questa puntura, povera donna. Tu vuoi vedere come ci aveva le gambe poi mia nonna, non gliele potevi toccare, tutte le vene in vita, poverina. però è durata sino a 89 anni. E io purtroppo, deve essere, questi non vendono, voglio un nome della ditta e evidentemente non vendono a privati. Ma dove sta ordinando tu? E adesso me lo ordino da un'altra parte. Questo voglio un numero della ditta. Vai su Amazon, ti scegli ditte affidabili, se non arriva ti restituiscono i soldi immediatamente e magari ti costerà magari qualche spicciolo in più, però almeno sei sicuro. Natali, faccio una prova, senti questa radio, memorizza questa modulazione e poi adesso attacco l'altra al volo, guarda. E questa è l'altra, Natali, segnale, è cambiato qualcosa? No, la radio mi sembra appena più forte. Questa qui, ma più bella, a parte più forte, più bella, più naturale. Più squillante. Questa è quella che utilizzo sempre, sempre con la famiglia, però questo è il fratello piccolo, dai. Quello era il fratello maggiore, il babbo era della famiglia. Ok, il segnale più o meno sarà uguale, mi immagino, no? Sì, sì, è uguale il segnale. La radio forse quella là c'ha le cose più larghe, questa mi esce meglio. Un pochettino più larga, dai. Ok, va bene, dai. Lasciamo un attimino di bianco se vuole entrare qualcuno qua. 27075 canale 10. Coso, stavano vendendo della roba, mi ritardino il padre, tutta la stazione, ho visto su internet, infatti volevo chiamare perché c'aveva il 7000, lo stavano dando 250 euro, l'ICR 7000, quella è una bella radio. Lo so. E poi c'erano un po' di tutti i baracchini, l'ho visto proprio oggi su internet, ho detto ma questa roba la conosco, poi ho letto il nome. Adesso mi faccio. E come mai stanno vendendo tutto? Non lo so, non ne ho proprio idea, perché l'ho visto stamattina, proprio ho visto questo, vendersi apparecchiature non radiomatoriali, stazione CB e diversi apparati. Ho guardato e ho detto, ma cacchio, questa è la roba di coso, di Riccardino. Forse si è francato. Mi dispiace, era troppo simpatico, infatti glielo chiamo e glielo dico a vedere, tenersene qualcuno almeno, perché mi faceva piacere, era troppo simpatico, quel ragazzino era un piacere sentirlo. A me non mi ha più telefonato, evidentemente si è francato. Vabbè, ci sono state un po' di confusioni, dai, non diciamo altro, magari si è un po' disannomorato, poi doveva fare l'anno scorso l'esame di terza media, adesso è alle superiori, per cui deve stare un po' più attento alla scuola, pure per quello. Ma ha detto già entrava, gli avevo detto, ma qualche mese fa ci siamo sentiti, anche col babbo, ha detto che voleva entrare, vedeva un pochettino. Speriamo che ci lasci qualche baracchino, così almeno rimane sempre, se c'ha voglia, di entrare. Però dice ci ascoltava molto spesso. Questo cos'è che stai utilizzando, Natali? Questo? 3009, cos'è? No, non te l'ho fatto vedere. Non so se Marco te l'ha detto, quello che mi ha dato Marco. Marco? Ma Marco chi? Scorpio. No, non lo sapevo, ma la radio Siria? E ti mando la foto da su WhatsApp. Manda, ma no, pensavo, perché c'è il segnale più forte adesso rispetto al solito. Ma l'antenna è sempre quella, c'è Natali? Sì, non l'ho piazzata ancora perché sono impegnato con delle visite mediche, quindi non. Cappa. Attenzione canale 10, vediamo chi vuole entrare avanti con la buonasera. Mi te l'ho mandato. K, bella, bella radio, complimenti, bel baracchino. Sono basso basso, mi. C'ha anche le bande laterali, ho visto, proprio un baracchino completo. È legato questo, E poi è omologato, almeno quello è importante. Infatti. C'ha ancora il display ad ago, perché quelli cacchio che ci sono adesso moderni hanno quei display a barre LED fluorescenti, una cagata, questo è come piace a me. Poi anche grandicello, viene bene anche utilizzarlo, non è di quelli piccolini tipo la Lana 48, è un po' più grande questo, bello. Poi è completo, c'ha le bande laterali MFM eccetera eccetera, bello. Si chiama Superfans 3009. Sì, sì, bello, cioè mi piace anche la modulazione. Che microfono stai usando? Tarn, cos'è? No, la V508. La V508, bene, ci va bene, si sposa bene con questo baracchino. Aspetta, che è proprio una cosa. Guarda che ho usato il macchinino a vedere, più forte la radio. E già lo credo, il doppio, pure troppo, Natale. No, ma io lo tengo sempre così, così lo tengo. Va benissimo così, Natale. Bella, bella, complimenti. Adesso me l'ho comprato l'RT95. Mi dovrebbe arrivare questa settimana, dice domenica 30, ma può darsi che già arrivi domenica. Ma questa foto mi hai mandato la tua stazione? Come? Questa foto che mi hai mandato la tua stazione? Ti ho mandato solo due, ce ne sono lì, non c'è tutto. No, ho visto che c'è questo accordatore SX, cos'è? Diamond, SX 200. Aspetta, a vedere. No, quello è un Diamond, non è un accordatore quello. L'accordatore, ti mando la fotografia, là. L'MFG io come accordatore. Quello è un Rosmetro. È quello che c'è a fianco al Rosmetro, che cos'è? Ah, quel ricevitore della Uniden, quello piccolino. Ma c'è anche il mandato laterale quello? No. Però c'ha gli HF, da quanto parte? Sì, mi lamenta assai, tutto prende, da. Solo che non ha l'SSB. Vabbè, lo fai l'SSB, te lo fai col baracchino, questo nuovo. E infatti, hai visto tutto, l'hai visto? Sì, sì, bello, bello. E anche le dimensioni, in modo che venga bene a usarlo, i tasti sono belli evidenti, dai, nel senso non sono di quei tastini piccolini, a me non mi piacciono troppo piccoli. Si assomiglia come radio al presidente, bella, il colore del presidente c'ha. Sto sbadigliando, scusa, per stare lì, mi sono messo dormendo, sono già a pezzi. Io ti ho mandato la foto di quello che volevi vedere. Sì, l'ho visto, questo ad aghi incrociati. È quello lì come accordatore. Fa solo da 0,30 fa questo? Come? Fa solo 0,30 questo. Sì. Ne ha uno bellissimo, Luca Flipper, ad aghi incrociati della Daiwa. Bello, veramente bello, un televisore sembra bello grande, fa le HF e le V e le U. Ma non è accordatore quello è il Rosmetro, ce l'avevo uguale io, quello che mi hanno sequestrato. Non accordatore, il Rosmetro Vatmetro, tu dici. Cioè, quello così mi hanno sequestrato. Perché? Non te lo puoi far restituire. E come faccio a farmelo restituire? Perché non era marcato CE. L'accordatore. Se mi volevano portare via l'alimentatore pure, meno male che marcato CE questo. Vabbè, allora sono venuti a fare male, no? Io ho quello della ZG, che ho fatto uno scambio, il 700, ad aghi incrociati, che c'ha le HF e le V e le U. Per le V e le U non ne ho il Rosmetro, mi sembra che faccia il Rosmetro le V solo, questo mi sembra che faccia. Questo Rosmetro fa le 0,30, però non fa le U, le U non le fa, me lo devo buscare, già c'è quello che fa le U. L'ideale è averli sempre separati per ogni banda di frequenza, uno per le HF, uno per le V e uno per le U, così almeno ce le hai ben evidenziate le cose. Io ho il wattmetro della Beard, quelli professionali, quello non so se lo conosci, che si mettono i tappi a seconda della frequenza, quello è un bel apparecchio. Quello è di lusso. Sì, poi ci sono diverse potenze e diverse frequenze, io però ce l'ho per le VHF, ne ho due di tappi, infatti se trovo qualcuno che vuole scambiare gli do un tappo delle V e me ne dà per dire uno per le U o per le HF, anche se per le HF te le fanno pagare una barca di soldi, il tappo cacchio ho usato lo paghi 120 euro, un tappo per le HF. Lo so che costano, solo la... parecchio, mi sembra che costa 400 euro. Ma no, se va a comprare un nuovo uguale, ora li stanno vendendo usati, c'era uno lo stanno vendendo usato a 340 euro ed è un prezzaccio, perché se li trovi perfetti, calibrati e coso, li paghi dai 400 euro in su. Il mio è nuovo, è certificato, ci sono le date cui hanno fatto l'allineamento, perché questi vanno calibrati, sono super precisi, non sono ZG o cose del genere. Sono, se tu li vedi, vabbè, già qualcuno si sembra roba antica della guerra, perché hanno lo strumento circolare, però sono molto precisi, veramente dei prodotti di altissimo pregio. Infatti, occhio, tienilo bene quello lì. Guarda, è stato il regalo di un amico, io grazie a Dio già ce l'ho qualche amico generoso, l'ho visto, è questo, cacchio, l'ho guardato, siccome questo c'è un sacco di roba, lo vuoi? Come lo voglio? Prenditelo, cacchio, tu prendi, ma stai scherzando, prenditelo, te lo regalo, e me l'ha regalato. Alla faccia, quello sì che è bello. No, ma a me mi è sempre le cose vintage, poi, anche se questo lo fanno ancora, adesso esiste la versione digitale, nero, eccetera, però è ancora in produzione il Birdy, nonostante che ci abbia penso che sia uscito negli anni 40, 45, non lo so, sempre più o meno qualche aggiornamento hanno fatto, però è sempre quello il prodotto, la carcassa in ferro peserà 4 kg, tutto quanto, dai. Lo strumento analogico a lancetta è molto, molto larga la scala, e sono prodotti che li usano i laboratori di altissimo pregio, e anziché usare questi scadentini usano questi, ci mettono le sonde a seconda di quello che devono utilizzare, le potenze arrivano sino a che pare il massimo a 50 kW, ci sono tutte le scale di potenze e tutte le frequenze sino ad arrivare a non so se a 200 o a 300 giga a seconda di quello che devi fare. Ok, lasciamo un attimino di bianco, Natalino, vediamo se entra qualcuno, se no riprendi tu. Avanti, che vuole entrare sul canale 10. Cioè il QRM a 8 è passato pure oggi, quasi 9, allucinante. È strano, oggi ce l'ho a 3 io. Con quello grande invece il QRM è a 1, cacchio, quello l'apparecchio grosso, dai. È tutta un'altra cosa, Capito. Però anche questo già mi sono tolto soddisfazioni con questo qua. Diciamo già va bene, soprattutto in modulazione, ricezione è abbastanza, diciamo, anche se un po' più rumoroso rispetto all'altro, però già ne tiro fuori i segnali, dai, già non mi lamento. Ok, Natalì, io ti lascio perché sono un po' stanchino, faccio una chiamata su 525 se c'è qualcuno e poi vado a riposarmi. Ti saluto, grazie del QSO, ci sentiamo in altre occasioni. Ciao ciao. Ciao ciao.